Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui alle 8:17 minuti in punto. Ci siamo anche quest'oggi. Eccoci qua alle 8:17, come dicevi tu, in diretta fino stavi alle 9. Stavi combattendo con un microfono. Sì, perché l'avevo alzato per sistemare il video e poi probabilmente era rimasto eretto, per così giustamente. Senti, certo, mamma mia, dal 14 luglio oggi, se dovessimo dire cosa abbiamo alle spalle. Ma comunque, forse qualcuno vuole ancora pregare, non lo so. E allora ricordiamo brevemente che tra tutti i santi di oggi, Arnolfo, Elio, Federico, Marina, eccetera, ho scelto solo qualche parola su San Ruffillo, perché San Ruffillo, pensate, è un santo, un vescovo del V secolo tra Forlì e Forlimpopoli, che viene venerato perché insieme a un altro santo avrebbe sconfitto un drago. Ecco, ho detto tutto sulla veridicità e fondatezza di queste prove di santità, però insomma ci sono anche santi di questo tipo. Oggi, anniversari, nel 64 d.C. stanotte c'era l'incendio di Roma, partiva l'incendio di Roma dalla Nerona, e sarà un caso, sarà necessità oggi nell'anniversario del incendio di Roma, compiono gli anni sia Ignazio La Russa sia Maurizio Gasparri, e sono i casi della storia, però bisogna notarli, perché sì. Gli allineamenti delle stelle talvolta ha dei significati, per così dire. Tu dici, sto scherzando, certo, ma è ovvio, si è capito, però è bene ribadirlo per i nostri ascoltatori sempre. No, tra l'altro parleremo in qualche modo di Roma, perché non vogliamo dimenticare, anche se l'attualità internazionale si impone anche sui giornali, certo, tra Nizza, la Turchia, però nel frattempo quello che cose in Italia avvengono, ecco. Come no, avremo per esempio il presidente dell'AMA, quello che deve raccogliere i rifiuti, Daniele Fortini, che ci racconterà perché Roma è sporca. Roma è sporca. Parleremo. E ci sono già polemiche sul fatto che Virginia Raggi non è riuscita a pulirla in 6-7 giorni. Esatto, ci sono i toponi. Però, caro Oscar, direi che la Turchia forse, oltre a Nizza, si impone con quelle che sono le accuse anche volate da Istanbul. Il ministro del lavoro turco dice c'è Washington dietro il colpo di Stato, che è una cosa che nella storia, diciamo, come dire, si è sentita abbastanza spesso. Ma loro ce l'hanno con Washington, perché ospita in questo esilio volontario Fethullah Gulen da molti anni, che è il punto fisso nella testa di Erdogan, perché in realtà aveva più testa di lui, però Erdogan alla fine ha vinto lui la partita del potere. Secondo alcuni in Turchia sarebbe l'ispiratore di questo colpo di Stato. Insomma, Fethullah Gulen ha messo in piedi una struttura che Erdogan non aveva. Adesso Erdogan si è preso lo Stato da 10 anni, ma Fethullah Gulen ha fatto la lotta alla Turchia secolare, laica, eccetera eccetera, mettendo in piedi una rete di scuole, di formazione che selezionano quelli che vogliono andare all'università e non hanno i soldi, che assistono al di là del welfare pubblico, che è il metodo attraverso cui l'Islam sociale vince i consensi, ed è ancora una rete, malgrado 10 anni di lotte e incarcerazioni che ha Erdogan la sottoposta, che è ancora in piedi. Tra l'altro dagli Stati Uniti ovviamente Kerry dice è assurdo, irresponsabile tirare in ballo gli Stati Uniti e Washington, però il segnale è che segnale 24 ore prima del golpe aveva fatto la pace con Putin, e Putin è il primo che lo ha chiamato anche ieri, quindi c'è un chiaro segno sul fatto che la NATO non gli piace, ecco. Vogliamo chiedere a padre Alberto Ambrosio, che sta a Istanbul e che è con noi collegato in diretta, che ringraziamo, buongiorno a tutti. Ovviamente intanto ci dica com'è la situazione, se è davvero più tranquilla oppure... La situazione si è estremamente normalizzata per certi versi, anzi per certi versi è proprio, siamo caduti all'opposto, cioè c'è la gente che fa festa in mezzo alle strade con le bandiere della Turchia, è quasi un tripudio, in certi angoli delle strade la gente si ferma, si formano dei crocicchi, fanno festa, suonano i clacson, cioè esattamente l'opposto di quanto si può immaginare della notte del golpe, che è stata drammatica con gli F-16 che ci passavano sopra la testa per più di un'ora, quindi ecco, da un lato si è normalizzata, ma siamo caduti in un opposto che lascia anche dei dubbi, ecco. e dei timori, cioè perché si dice adesso Erdogan ha ripreso, perché... il ha ripreso il potere e rischia di come dire, girare e fare una stretta sulle repressioni. C'è quello come timore, i video che circolano già in internet non rincuorano, non confortano, perché sono video in cui appunto i militari vengono presi d'assalto e battuti ferocemente dai civili, e questi video circolano liberamente già sui media e su Facebook, per esempio, per chi ha dei contatti con la Turchia e con amici turchi. Questi video girano liberamente perché insomma la gente è comunque libera e vuole mantenersi in una certa libertà di opinione. E qui padre Alberto, se parlato dei dubbi, delle perplessità. Certo, i dubbi e perplessità ci sono stati. Adesso Oscar magari ci dirà anche la sua. Si è parlato di qualcuno ha detto un golpe fittizio, cioè addirittura un qualcosa, mentre qualcuno da una parte, il ministro del lavoro, attacca Washington, altri dicono guardate che è una cosa che Erdogan potrebbe aver messo in piedi in maniera fittizia per poi riprendere il potere ed essere ancora più duro. Io sono un padre domenicano, mi occupo di Islam in Turchia, ho scritto anche un libro, l'Islam di Turchia, e quindi cerco di analizzare i fatti dal punto di vista della storia dell'Islam in Turchia. Sono meno un analista politico e capisce che poi se sto in Turchia non mi posso lanciare in analisi così chiaro. Diciamo libere praticamente. È chiaro che questa domanda ce la poniamo anche noi che stiamo appunto siamo spettatori e in un certo qual modo partecipi. Le cose sono successe in un tale frangente di poche ore, sei ore, si parla di sei ore, e dopo, come dico, c'è quasi la festa che lascia perplesso. Cioè un buon colpo di Stato dura almeno due o tre giorni, vengono individuate dei luoghi molto strategici, le persone vengono arrestate immediatamente, insomma le analisi che si trovano sul net come altrove le conosciamo, voglio dire. Quindi è chiaro che questa domanda è Non so, Oscar. Padre, tu. È una domanda invece che forse a molti anche colleghi giornalisti, quindi a chi ascolta, a chi legge, non è stata chiarita bene. In Turchia la Direzione Nazionale Affari Religiosi è di Stato. Certo. E tutti hanno constatato che appena il sindaco di Ankara e alcuni esponenti di punta della KKP, prima ancora che parlasse attraverso CNN Erdogan, di cui non si avevano notizie, subito dopo l'appello a scendere le piazze, dai muezzin delle maggiori città è venuto l'appello, cioè dalle moschee. Può spiegare un secondo ai nostri ascoltatori l'Islam di Stato in Turchia? Come funziona? Com'è diretta la catena? C'è una catena veramente diretta dalla politica alla... Certamente. Ecco. Dunque, questo ministero nasce sulle spoglie di un antico, come si può dire, ministero di ottomano che riguardava le questioni religiose. Il grande mufti di Istanbul era il garante della religione, che poi appunto c'era lo Sheikhul Islam ottomano. Sulle spoglie di questa eredità dello Sheikhul Islam, cioè dello Sheikh dell'Islam, del garante dell'Islam di epoca ottomana, nasce questo ministero per volontà stessa di Atatürk. Quindi Atatürk stesso aveva una visione molto più complessa di una laicità giacobina, riguarda la laicità come si può immaginare, perché fu per volontà di Atatürk che già nei primi anni della Repubblica, subito al 23, volle questo ministero. Il ministero gestisce tutto il fatto religioso ed è un ministero che afferisce direttamente alla presidenza del Consiglio. Quindi c'è una certa indipendenza, però è chiaro che i piani religiosi, che sono piani quinquennali, sono piani che hanno una valenza, che lo si voglia o meno, politica. Anche perché se non fosse così non si capirebbe come nel giro di due ore ci sia stata questa reazione immediata dalle moschee. Sì, no? Devo dire che ci ha particolarmente scioccato, perché sentire il richiamo della preghiera, questo è sempre possibile, anche perché talvolta è una specie di lamento funebre, come è stato anche l'indomani mattina, e quindi si piange e si deplora, certo, quello che il paese sta vivendo. Però a un certo punto c'è stata proprio una voce diretta che richiamava a scendere in piazza, e questo è un legame fortissimo con una volontà politica, ecco, questo è abbastanza... Però... Questa è una prima assoluta per quanto mi riguarda, la mia conoscenza della storia della Però padre Alberto, ricordiamo, insieme a padre Alberto Ambrosio dei padri domenicani a Istanbul, noi abbiamo anche contattato, ci ha scritto un messaggio e la ringraziamo di essere con noi, un'italiana che vive da 4 anni in Turchia per lavoro, e ci spostiamo a Kayseri, quindi nel cuore della Turchia, dell'Anatolia, dove c'è proprio il serbatoio della maggior parte dei voti, che non ne ha presi pochi, perché a novembre, ricordiamo, Erdogan ha vinto le elezioni col 49% su una platea di votanti di oltre 50 milioni, hanno partecipato al voto l'87% dei turchi. Valentina è una connazionale, buongiorno Valentina, da Kayseri. Buongiorno. Appunto. E, lì la situazione, mi sembra di aver capito, è stata vissuta in maniera più soft, se vogliamo dire così, no? Più tranquilla, più sfumata, è così? Sì, perché qua non hanno motivo di, non hanno niente contro cui opporsi, sono tutti pro Erdogan, non ci sono. Se ci sono, se c'è qualcuno che la pensa diversamente, se ne guarda bene dal dirlo, e più di qualche clacson in piena notte non c'è, si è stato visto. Immagino i clacson quando il golpe è rientrato, oppure i clacson? No, quando era in corso, però pochi, ecco. Pochi. E insomma, di giorno io non ho poi visto il lavoro del dire ci siamo dispiaciuti del fatto che sia finito, ecco, anzi. E dopodiché, cioè, si sa qualcosa, perché si è parlato nel paese di grande repressione, di 3.000 giudici arrestati, di giro di vite sulle opposizioni. Credo che se lo chiesto l'aspetti, non è senso che la repressione non è una novità qua. Mm-hmm. E quindi il golpe non era apprezzato neanche dalle persone più libere. Io ho gli amici che stanno a Izmir, dove invece la gente normalmente la pensa in un modo diverso, il golpe è stato visto malissimo ovviamente anche lì. Anche se poi, per esempio, lì c'è qualcuno che dice sì, potrebbe essere fatto da Erdogan, anche se l'ha fatto da solo. Questo è il massimo a cui arrivano. Poi sulla repressione mi sembra che siano tutti silenzio assenso, ecco. Esatto. Per ora non... Ecco, i morti no, non sono graditi, perlomeno dai giovani, vedere la gente decapitata non è una cosa che piace molto. Per fortuna. Questo sì, per fortuna. No, anche perché, caro Oscar, qua, Erdogan ha detto c'è la possibilità del ripristino della pena capitale. Cioè, la possibilità, noi stiamo parlando di un paese che può sembrare lontano, ma la NATO è un fronte aperto, no, ma può essere la storia, ai cui confini la porta dell'Europa, Daesh, Putin, ecco, no, forse la Cecenia. Per alcuni dovrebbe essere Europa, per altri no. Dopo questo fatto è il fronte che si allontani la cosa. E tu vuoi sperare questo? Io voglio sperare sì, perché io credo che resterà 20 anni Erdogan adesso, già è lì dal 2003, perché il giro di vita autocratico. Ci abbiamo un altro ascoltatore, Francesco C, che ci prega di non dire il suo cognome, fa l'imprenditore a Konya, quindi anche qui stiamo parlando dell'Anatolia, non della parte europea, e ci scrive questo all'indomani. La lettera ce l'ha mandata ieri sera, stanotte. La mia opinione è la seguente: il dittatore ha capito, lo chiama il dittatore, forse anche per questo che vuole che non riveliamo, però vi assicuro la lettera, l'abbiamo contattato, esiste, Francesco C opera a Konya. Il dittatore ha capito il vero segreto della Turchia, e cioè che o la Turchia di oggi diventa ancora più fondamentalista, acritica, irregimentata, sottomessa e, lasciatemi l'espressione, pagana, perché Erdogan è un officiante dei riti pagani, nazionalisti, celebrati con tutto il suo staff e sempre più milioni di fedeli, sul modello di un autoritarismo nazionale quasi fascista. Oppure la seconda alternativa è che la Turchia non esiste più. Perché dico questo? Il nostro ascoltatore dice: perché i liberal, cioè la borghesia illuminata, di cui voi molto scrivete sui giornali d'Italia in Europa, in realtà non sono turchi, sono europei, ma è una minoranza. I curdi non sono turchi. E le minoranze, però, i turchi nazionali, che oramai hanno punto di riferimento in Erdogan, non le vedono integrabili, sfuggono alla presa di questa assimilazione, ed ecco perché Erdogan punterà sempre di più sulla via autocratica nazionale. La mia opinione è che venerdì del golpe è morta per sempre, almeno per un lungo tempo, la Turchia non irregimentata, spregiudicata, critica, irrazionale, che aveva in una certa idea dell'esercito l'ultimo bastione. E quindi sarà più forte questa nuova religione nazionale, un neopaganesimo. Vi invito a riflettere, mentre vi saluto, sul fatto che Erdogan viene chiamato nella politica nazionale Peygamber. Peygamber vuol dire un profeta in turco, non un semplice presidente. A voi fare i conti con il profeta Erdogan. Dovremmo fare i conti, padre Ambrosio, con questo nuovo profeta che potrebbe rimanere anni. E a questo punto l'Europa come dovrebbe comportarsi con la Turchia? Questa è la domanda successiva. Ma sicuramente questo questo personaggio, il presidente, è destinato a rimanere ancora in carica per un certo tempo. Ora, l'interpretazione che abbiamo ascoltato è sicuramente interessante e sicuramente, diciamo, l'idea di profeta può essere soggiacente nell'immaginazione collettiva, perché se da un lato si parla del nuovo sultano, è chiaro chi ha detto il sultano era detto l'ombra di Dio sulla terra, quindi la figura profetica c'è, quindi niente di tutto, non c'è una novità assoluta, anzi credo che proprio quella linea lì possa essere davvero efficace nello spirito, nell'immaginario collettivo. Ed è per questo che ha una grande capacità e un grande influsso sulla popolazione, con un carisma conclamato da tutti, cioè da tutti quelli che lo sostengono da anni. Allora, padre Arbosio, ci vuole ricordare ancora il libro che ha scritto, così chi volesse documentarsi? L'Islam di Turchia presso Carocci, è uscito già un anno fa, diciamo nel 2015. L'Islam in Turchia presso Carocci. L'editore, ovviamente. Grazie a padre Alberto Ambrosio, grazie padre Domenicani. Valentina, che lavoro fa lì a Kayseri, giusto per sapere? Io insegno, ma ce ne sono tanti italiani che insegnano qua. Che bello, insegna cosa? All'università, perché l'università parla in inglese direttamente, quindi è più facile iniziare una carriera qua che in Italia, diciamo. Vedi, caro Oscar. questo è un dramma nostro. Sì, certo. Posso dire, cioè, va bene che Erdogan sì, è ammirato, ci sono persone che si identificano in questo padre padrone, però anche quelli che non lo votano comunque riconoscono che non hanno molte alternative forti, capaci di confrontarsi con gli altri stati come fa lui, e comunque lui li ha tolti dalla povertà. Già. Non è facile, anche se riconoscono i suoi problemi, decidere di voltare pagina. Cioè, no, perché certo, quando manca un'alternativa, è chiaro che poi questa è una pagina però vista molte volte nella storia dal Novecento in avanti, cioè autocrazie che si fanno forti di un ciclo economico favorevole, le cui basi non ha posto Erdogan, però Erdogan l'ha organizzato socialmente e così via, e che diventano, con lo scudo del sostegno popolare, sempre più autocratiche. E questo pone un problema all'Europa, che oramai non è più capace di raccapezzarvisi. Voglio dire, il silenzio delle capitali europee e degli Stati Uniti, fino a che non si è capito che Erdogan vinceva, era evidente, ed è una cosa che ha trasmesso questa tragica mancanza di leadership, per me, riguardo Obama, ma riguardo l'Europa anche. E capito, tutti muti e zitti, nella speranza non confessata che il golpe fosse più serio e riuscisse, per poi dire no, Erdogan. È ovvio che lui ha capito che a quel punto il suo interlocutore è Putin. Però democrazia e autoritarismo è l'altra faccia di chi criticava l'eccesso di democrazia di Brexit. Cioè, guarda che sono due facce della stessa medaglia della crisi della democrazia europea. Ecco, esatto, per concludere, Valentina, il coinvolgimento americano è un qualcosa che è uscito solo dalla bocca del ministro del lavoro turco, oppure la gente comune dice ma insomma c'è Washington dietro questo? No, la gente comune, quelli un pochino più, ecco, pensano più il contrario. Come dicevo prima, pensano più che se lo sia fatto da solo e citano le fonti americane. Però le dico, sono una minoranza in realtà. Va bene, ovviamente in bocca al lupo. Grazie a Valentina da Kayseri, che è stata con noi, ascoltatrice insomma, di Radio 24. Vedi che bello, anche il nostro popolo ci ascolta all'estero, in streaming, esatto, in diretta. Sabato ho fatto la stessa cosa l'indomani. E devo dire, posso spezzare una lancia a favore del fatto che sia così outspoken, che parli così liberamente padre Alberto Ambrosio, Study Institute. Anche se ha detto a un certo punto, io qui dalla Turchia non è che sono proprio, posso dare un'analisi totale. La sede Domenicani è a Galata, quindi stiamo parlando del cuore del Istanbul ex imperiale, per così dire. E ti assicuro che c'è chi lo ascolta in Italia per riferire cosa dice. Questo è poco, ma è sicuro. Quindi grazie veramente, padre Alberto. Esatto, che ha scritto anche questo libro, edito da Carocci. Allora, noi, Oscar, andiamo un attimo in pubblicità. Non abbiamo dato il numero, ma è sempre quello: 800-24. Ah, credo che dicessi andiamo a occuparci. No. No, mentre nel mondo succede questo, qui sono le espulsioni dei 5 Stelle, no, la nuova proposta di legge proposta dalla minoranza del PD. Se c'è una cosa purtroppo nel dramma dei resoconti di morti di Nizza, della Turchia, dell'America, purtroppo ci vogliono drammi come questi per ridarci le giuste proporzioni, annullare le pagine di politica interna italiana. Purtroppo, devo dire, cioè, ci devono essere morti. Adesso vedrai la convention di Cleveland, perché tutti si divertiranno sul pazzo Trump, quelli che girano per Cleveland con i mitra sulle spalle. Hai sentito tra l'altro cosa ha detto il premier francese Val? Ha detto: non dobbiamo reagire a questa cosa di Nizza, non dobbiamo trampizzare le coscienze, cioè il neologismo, cioè, non, questo non è neanche presidente degli Stati Uniti. Io credo che i media così facendo pongano tutte le basi, perché poi all'indomani della conta dei voti, non ho detto chi vince perché non lo so, però sono comunque convinto che prenderà molti più voti di quanto tutto questo concerto europeo del descriverlo come un pazzo fuoriuscito da chissà quale tombino della storia. Poi l'indomani si dirà: ops, ancora una volta non l'abbiamo capito, perché è sempre lo stesso meccanismo, sì. Il no all'elite dominanti, bla bla bla, non è che ci siano facce diverse di un problema analogo che viviamo in molti paesi europei, ecco. Comunque 800 24 00 24, tra poco parleremo anche di cose italiane, per esempio perché Roma è così sporca, cari cittadini romani, è colpa vostra, è colpa di chi non dei pulisce topi. È colpa dei topi, dei gatti, dei gatti, vedi, gli dei inglesi. Ratti, gli inglesi se n'è andato Cameron, adesso c'è Theresa May e il gatto che deve acchiappare i topi, oh, con strato funzionario dello Stato, lei rimane a Downing Street, la sanno più lunga di noi, che vuoi che dica, Roma ha levato per fortuna tutti i gatti clandestini che erano randagi per le strade e i topi ne approfittano. Comunque avremo con noi il presidente dell'AMA, l'azienda municipalizzata dei rifiuti, Daniele Fortini, tra poco a Roma. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta, tanti salumi italiani buoni, gustosi e già affettati. Caro Oscar, eccoci qua alle 8:41 minuti. Allora, siamo pronti a parlare anche di cose italiane, senza dimenticare tutta l'attualità. Tutta l'attualità è la scia tragica. Cioè, è incredibile. Italiani ma che ancora mancano. Ma appunto, ma stavo pensando la stessa cosa. Cinque italiani dispersi e anche altre persone. Cioè, non si sa ancora una lista dei deceduti, di quelli che mancano. Non è una prova, come dire, purtroppo di grandissima efficienza dal punto di vista di uno Stato che è già stato colpito, no, di recente per nulla, anche terrorismo, perché no? Uno di quei casi, per esempio, è stata una signora italiana di cui le amiche hanno visto che saliva con un problema a una gamba, esatto. Lei era perfettamente cosciente, non era un'ambulanza e non si sa riesce dove a capire sia. Dove sia, ecco. Una cosa incredibile. Comunque, allora, vogliamo parlare di Italia? Consentimi anche di dire... è ovvio che 84 morti mettono in crisi un ospedale, però che riconoscimenti avvengano su tir che consegnano gli alimenti, che sono gli unici reperiti dall'ospedale capaci di mantenere la temperatura, ecco, questo io mi metto nei panni dei familiari che devono cercare di andare lì a fare riconoscimenti, ecco. Se solo fosse capitato in Italia avremmo avuto una reazione mondiale, come li fanno salire sui camion del pesce. Scusate, capisco, nell'emergenza si fa quel che si può, però stiamo parlando di Nizza, non è che stiamo parlando di un... Vabbè. Allora, vogliamo parlare di rifiuti a Roma, visto che abbiamo chiesto perché Roma è sporca. C'è già un'ascoltatrice che ci chiama Giorgia da Roma. Buongiorno Giorgia. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Felice di sentirvi. Finalmente riesco a parlarvi. Bene. Una trasmissione intelligente. Ogni tanto. Troppo buona. Ogni tanto noi, cioè ogni tanto la facciamo intelligente, ogni tanto. Non montiamoci la testa, grazie Giorgia. Dica Giorgia. Senta, no, volevo dirvi che anche noi siamo molto maleducati, ma di un'ignoranza proprio, forse direi, atavica. Sì? Sì. Cioè noi nel senso sulla, siamo... sulla pulizia, dice della città. Sì, sì, sì, sì, sulla pulizia. Io sono spesso in giro e quindi vedo che, cioè, non so se è normale che buttare pacchetti di sigarette per terra, buttare la mondezza dove... non devi buttarla, invece di chiamare il numero verde per fartela venire a prendere. Cioè, tutto diventa complicato, anche chiamare questo numero e dicendogli vieni a prenderla, perché c'è il comportamento delle persone, è il comportamento delle, delle persone, ecco. Poi è vero che non funziona, la città è sporca, ma noi non facciamo nulla per, per renderla migliore. Guardi Giorgia, va bene, prendiamo questa considerazione sui romani, la vogliamo girare subito, no, però stia attento, presidente Fortini, Daniele Fortini, presidente dell'AMA, cioè l'azienda municipalizzata che si occupa proprio della pulizia. Buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno. Stia attento, buongiorno, perché quando si, quando si entra nel campo del giudicare il comportamento dei cittadini, termini comparati antropologici, esatto, però che ne pensi? Ha un po' ragione l'ascoltatrice a dire che è anche un po' colpa dei cittadini. Ma guardi, la città più pulita è la città che non viene sporcata. È chiaro che ci sono comportamenti dei cittadini di maleducazione. D'altra parte, quello che diceva adesso l'ascoltatrice è confermato da un'indagine del 2015 commissionata dal Comune di Roma, con la quale si chiedeva ai cittadini: ma secondo voi di chi è in colpa della città sporca? Il 55% dei romani ha risposto è colpa dei cittadini. Però questo testimonia una consapevolezza. I romani sanno che si devono comportare meglio, ma questo non esclude le responsabilità dell'amministrazione, dell'azienda, e il fatto che si debba lavorare di più e meglio di quanto invece non si riesca a fare. Ecco, le responsabilità dell'azienda, presidente Fortini, ma perché Roma è sporca, al di là del sondaggio che ci ha detto e delle responsabilità eventuali anche dei cittadini? Cioè, qual è il problema? Dire che ci sono pochi dipendenti mi sembra che non si possa dire per l'AMA. No, guardi, il problema è strutturale. Roma è una città drogata da 40 anni di presenza di una grandissima buca, la più grande discarica d'Europa. L'azienda pubblica era destinata ad essere braccia e carrette, svuotare i secchioni, come diciamo a Roma, in mezzo alla strada, caricare i camion e svuotarli a qualunque ora del giorno e della notte dentro quella grande buca, una grande ingordigia. È una discarica che per 40 anni ha ricevuto decine di milioni di tonnellate di rifiuti. Quando la discarica è stata chiusa, una pronta alternativa non c'era. In questo momento stiamo andando in 8 regioni italiane, 5 paesi esteri, usiamo 60 impianti fra impianti di compostaggio, inceneritori, discariche, impianti di recupero di materia di altri soggetti, e noi l'unica cosa che facciamo è raccogliamo il rifiuto indifferenziato. La differenziata è al 42%, quindi ha delle soglie di tutto rispetto, ma tutto quello che è indifferenziato lo frulliamo in 4 macchine che separano la parte umida che va in discarica dalla parte secca che va a bruciare. Solo che si lamentano i cittadini che spesso non viene raccolta, cioè le immagini dei cassonetti, della sporcizia. Certo, perché quando questi 4 frullatori si intasano perché non riescono a far uscire il materiale da bruciare o da discarica, perché accade che un inceneritore del nord possa andare in manutenzione, una discarica possa essere fermata dall'autorità per controlli, quindi i rifiuti trattati, cosiddetti trattati, non riescono ad uscire, i nostri frullatori si intasano e noi facciamo code anche di 40, 50, 80 camion che aspettano di smutare il loro carico perché appunto l'impianto è intasato e non ce la fanno. Quindi un'ora di coda, 2 ore di coda per svuotare, paghiamo un sacco di soldi di straordinari, i nostri operai si frustrano perché il loro lavoro viene vanificato nell'efficienza da questa stortura, e alla fine il sistema rimane lì a monte, il cassonetto rimane a volte anche con la spazzatura non raccolta. Purtroppo, e questo è l'effetto di una causa che però appunto è il mancato funzionamento di un sistema industriale precario, primitivo, che non ha uguali al mondo. Veda, tutte le capitali europee nella loro area metropolitana risolvono il 98% del problema, vuol dire raccolgono i rifiuti, li differenziano, li smaltiscono. A Roma siamo soltanto al 36%. È chiaro che dipendiamo da altri, e questa dipendenza da altri crea è costosa e nello stesso tempo rende l'inefficienza. Qua c'è Oscar Giannino. Oscar, tu sulle municipalizzate hai detto, hai scritto moltissimo, no? Anche parole perché, anche dure. Ma io mi limito, sai, ogni anno a fare il controcanto e a ricordare quello che ci consegna il rapporto annuale curato da RS di Mediobanca sulle municipalizzate italiane. Roma ha purtroppo da molti anni questo, come devo dire, trofeo negativo di avere le due municipalizzate, grandi municipalizzate, l'ATAC è la peggiore, ma l'AMA la numero due, che nel corso del decennio hanno contribuito di più alla perdita complessiva nelle municipalizzate di settore, in questo caso quello della raccolta rifiuti. L'AMA, diciamo, negli ultimi due anni ha un po' raddrizzato, ecco, la sua gestione economica finanziaria, ma è già stata salvata una volta dal comune che ha dovuto ricapitalizzare la società che aveva patrimonio negativo. Comunque sia, resta con una struttura di costi, il commissario Tronca ci ha ricordato, sono quasi 800 milioni, e i romani hanno questo bilancio, questi sono i numeri, vengono dall'agenzia stessa che controlla ogni anno per conto del Campidoglio le municipalizzate, cioè tariffa pagata dai romani, quella privata alle famiglie, rifiuti più 43%, quella pagata dalle imprese più 72%. Allora la mia domanda al nostro ospite è questa: se c'è la struttura che ci ha detto su come era orientato a favore di un grande privato, parliamoci chiaro, che è sotto inchiesta adesso la raccolta rifiuti a Roma, resta però il fatto che l'azienda aveva una struttura clientelare per di soldi con dei costi pazzesca. Qual è il limite temporale che si dà a un amministratore come lei per avere una gestione invece davvero efficiente, senza quella percentuale di gente che non lavora che vi ha portato anche in questo in alto nelle graduatorie 4, 5, 6 volte superiore a quelle delle aziende private e così via? Secondo lei, uno che arriva e trova questa bella condizione, che tempo si dà per avere per poter invece dire ai romani non solo il piano industriale come smaltiamo i rifiuti, ma anche l'efficienza e la trasparenza di questa azienda è un po' più sopportabile rispetto agli aumenti di tariffe che avete pagato? Ma la ringrazio di questa domanda, dottore, perché è quella che serve ai decisori politici per capire, la cui risposta ovviamente serve ai decisori politici per capire come orientarsi. Allora, noi una scadenza l'abbiamo, e cioè la deadline con gli istituti di credito, entro la quale dovremmo aver restituito alle banche ormai 300 milioni di euro, perché ne abbiamo già restituiti 100. Questa è un'azienda che paga i suoi debitori e paga anche i suoi fornitori regolarmente. La deadline è il 2021. Entro il 2021 AMA deve aver restituito tutto il suo debito, circa 300 milioni di euro ormai residuali, e deve essere messa nella condizione di poter camminare, ovviamente avvalendosi del credito, ma non certamente più quello di salvataggio che abbiamo conosciuto dal 2008, quando è stato firmato il contratto di finanziamento. Quindi entro il 2021 abbiamo 4 anni davanti in cui costruire gli impianti fondamentali, d'avanguardia, innovativi, che servono per recuperare materia dai rifiuti. Abbiamo 4 anni in cui restituire tutto quello che dobbiamo alle banche, possiamo fare investimenti, dotarci di impianti, organizzare meglio l'azienda per come oggi funziona rispetto a come adesso non funziona, e quindi immaginare che a quella data noi cominceremo a vedere in modo più significativo e marcato di come è stato fino adesso. Noi abbiamo ridotto la tariffa rifiuti in 2 anni del 3,5%, ma nel 2021, a mio giudizio, è possibile immaginare una riduzione molto, ma molto più consistente. 2021. Questo perché con i conti in ordine, con un assetto industriale moderno, tutto vocato all'economia circolare, possiamo valorizzare le nostre raccolte differenziate in casa e non portare la ricchezza ad altri, potremo smettere di usare inceneritori e discariche in giro per l'Italia e in Europa, e quindi avere finalmente una capitale che sul ciclo dei rifiuti si orienta. Ma alcuni ascoltatori ci chiedono, che lei chiarisca, ma lei è confermato rispetto al sindaco, alla giunta nuova eterna, oppure no? A Romana, oppure no? Ma guardi, mi perdoni, ho sentito poco la domanda. Cioè, lei è confermato dalla giunta nuova, dalla giunta Raggi? Sì. Ma guardi, in questo momento siamo, diciamo, in stand by, perché c'era bisogno di riportare a una accettabile normalità la situazione. Adesso ci siamo, con questa settimana andiamo a posto, salvo incidenti, perché purtroppo, come ho detto, il sistema è molto precario, ma per quanto mi riguarda l'assemblea di AMA per gli avvicendamenti si può tenere il 4 di agosto. ne parleremo già oggi con l'amministrazione. Per quanto mi riguarda, ci sono tutte le condizioni per generare l'avvicendamento degli organi amministrativi della società. Abbiamo un piano industriale approvato dalla Sindaca Vittorina. Allora, è chiaro. Le chiediamo però questo, Fortini, perché manca un minuto. Che ne pensa dell'idea delle multe per chi sporca? L'assessore all'ambiente Muraro ha detto ci vorrebbero le multe. È efficace questa linea? Ma guardi, sicuramente sì. È utile, necessaria, doverosa, perché chi sporca, sporca l'ambiente, manca di rispetto alla capitale d'Italia, una città come Roma, quindi è giusto. Però è una norma di accompagnamento. Prima di tutto devi dare ai cittadini buoni servizi, li devi far costare il giusto prezzo, devi fare buona educazione, a cominciare dalle scuole, buona informazione, e poi di fronte a comportamenti che persistono maleducati, colpire e anche sanzionare. È chiaro. Va bene, intanto la ringraziamo. Fermiamoci qui. Daniele Fortini, presidente dell'AMA. E buon lavoro, vedrà. E magari qualche gatto in più. Qualche gatto in più. Qua, se volete, c'è Oscar Giannino che può offrire Lulu, Lola, Ragù, Artù, eccetera, eccetera. No, ne ho dimenticato uno, però. Lulu, Lola. Nella pausa ti interrogo meglio. No, porca miseria. Vedi. Sempre. Vedi, Lulu, Lola. Lola, Ragù, Artù e poi... Non lo so. Rimandato. Rimandato. Adesso, dai, tra poco. Ciao. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. La scorsa settimana finanziaria è stata caratterizzata da diversi eventi di rilievo, a partire dalla drammatica notizia di giovedì sera dell'attentato di Nizza. Naturalmente anche questi eventi agitano i mercati, ma l'effetto più evidente è stato determinato, pur nella contraddittoria ricostruzione, dal tentato golpe turco che ha mandato in rosso la lira turca, finita ai minimi da 8 anni sul dollaro. Vedremo poi tutto ciò come impatterà sul resto dei mercati finanziari oggi in apertura. Wall Street intanto continua a correre, mette a segno record continui, sono state apprezzate dal mercato le trimestrali dei colossi finanziari JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup. A sorpresa, invece, dopo la nomina del nuovo ministro inglese Theresa May, che gestirà il processo di uscita della Gran Bretagna dopo il referendum su Brexit, la Banca Centrale d'Inghilterra, contrariamente ad ogni attesa, ha lasciato i tassi invariati, rinviando le misure di stimolo monetario ad agosto. È stata una buona settimana anche per la borsa di Tokyo, spinta dalla prospettiva di nuovi stimoli monetari e dalla schiacciante vittoria della maggioranza di governo alle elezioni di domenica scorsa, mentre oggi la borsa rimane chiusa. Settimana intensa per il mercato obbligazionario. Per la prima volta in asta è scivolato in terreno negativo il rendimento del Bund tedesco, praticamente in negativo tutte le scadenze del debito giapponese, è in negativo addirittura il titolo svizzero a 50 anni e anche le aste italiane hanno visto nuovi record in negativo per il BOT ad un anno e per il BTP triennale. A Piazza Affari ha tenuto banco ancora il tema bancario. Per Monte dei Paschi si stringono i tempi per la cessione delle sofferenze come chiesto dalla Banca Centrale Europea, una soluzione che vedrebbe l'intervento del Fondo di Stabilizzazione Atlante. Il titolo ha recuperato in borsa. Per quello che riguarda invece Unicredit, è partita la cura Mustier, il nuovo amministratore delegato arrivato da poche settimane, già 2 le operazioni straordinarie di rafforzamento del capitale portate a termine, la cessione del 10% di Banca Fineco e del 10% di Banca Pekao. Il tutto mentre è partito il conto alla rovescia per la pubblicazione degli stress test sulle banche italiane, i cui risultati conosceremo il 29 luglio. Per quello che riguarda gli appuntamenti della settimana, abbiamo le nuove previsioni economiche del Fondo Monetario Internazionale, la riunione della Banca Centrale Europea e ancora una raffica di trimestrali dagli Stati Uniti. Fra le più importanti, Goldman Sachs, Microsoft, American Express, Intel, Morgan Stanley, General Motors. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Caro Oscar, allora, ho studiato, Lolo, Lola, Lulu, Ragù, Artù, sono i 5 gatti di Oscar Giannino che farebbero molto comoda al Comune di Roma, ci aggiungo anche la mia gatta. Gara di evidenza pubblica, noi siamo abituati così in famiglia. Non... aggiungiamo anche la mia gatta Zen, come sì, pensi che possa andare d'accordo con i tuoi? O fanno, fanno gruppo e la escludono? No. No, sono aperti alla competizione, contano solo i risultati, chi acchiappa più topi comanda. Possiamo fornire 6 gatti. infatti. Ragazzi, sapete che io in Canada, quando sono andato in Canada, sono andato in una fattoria a dormire una sera, tipo Airbnb, e c'era un gatto, proprio visto il gatto che si mangia i topi interi, proprio gluck. Quindi sono gatti che non hanno perso come i nostri temole a buone esatto. sane abitudini. Proprio cioè, c'era il topone, l'ha inseguito, l'ha preso in bocca e, drum, e se l'ha ingoiato tutto. Come un coccodrillo. Come un coccodrillo. Altro che... restano dei predatori, i nostri amici micetti. Sì, certo. Vabbè, come avete capito, siamo in diretta fino alle 9.30. Monica ci chiama da Roma, anzi, la ringraziamo per la pazienza, è stata con noi. Monica, buongiorno. Roma è pulita, sì, è sporca. Salve, buongiorno a voi. Allora, 30 secondi proprio, andrò velocemente. Sì. Allora, intanto il presidente dell'AMA dovete fare un contraddittorio con chi vive Roma, perché lui dice una marea di cose teoriche, ma è tutt'altra cosa. Allora, io abito in una zona che è molto popolosa, perché è la zona tuscolana, abbiamo palazzi di 8 piani, nel mio condominio siamo 140 persone, appartamenti, sì. quindi vi posso, potete immaginare la mole di immondizia. Allora, se l'AMA sistematicamente non scacca i cassonetti dal venerdì al lunedì, ovviamente voi potete immaginare che cos'è la via dove abito io. Quindi lui può dire tutto quello che può essere teorico, è un'altra cosa. Ma lui, lui ci ha spiegato perché, cioè questo meccanismo, allora, che non ci sono discariche, la discarica, ma la grotta è stata chiusa. Non si vede mai uno spazzino con la ramazza. Allora c'è stato il vento a Roma, e lui, se vive a Roma, non lo so, dovrebbe saperlo, sembrava la Bora di Trieste venerdì, è volato di tutto. Siamo i marciapiedi con l'immondizia fino alle caviglie, non c'è mai uno spazzino. Abbiamo l'erba vicino agli alberi sui marciapiedi alta 1,20 m, non c'è mai un servizio che viene a tagliare l'erba, che ovviamente diventa un ricettacolo di immondizia. Io non so quel genio che a Roma, nella mia zona, in tante, ha levato i cestini gettacarte, non c'è più un cestino gettacarte, se non ha un fazzolettino di carta, un qualsiasi cosa, non sa dove buttarla. Così vede, così almeno non c'è da raccoglierle, non c'è da svuotarle. Quindi lui può dire tutto che vuole soluzione. A livello teorico. Sì. Io mi ricordo quando ero piccola, se gli spazzini facevano una vita brutta perché si lavorava di notte, questi fanno una vita meglio dei commercialisti, degli avvocati, perché di notte si vede uno spazzino che lava la strada, che raccoglie le immondizie. Quindi... poi vabbè, ci sarà pure il problema delle discariche, ma non è romano che è sporco, perché noi abbiamo l'immondizia fino ai primi piani dei palazzi, che sovrasta i cassonetti, perché non viene raccolta, perché non ci sono i cestini gettacarte, e perché i marciapiedi non vengono mai lavati. Va bene, Monica, insomma, vede il contraddittorio, lo facciamo anche così. Dire, io credo che ai romani sia ben chiaro sapere che quando poi il Messaggero pubblica notizie sul tasso di assenteismo medio quotidiano all'AMA, e i romani dicono: ah! Ecco, pure. Però ci ha detto Fortini che nel 2021 tenete duro 5 anni, cari cittadini di Roma, e forse si sarà risolto tutto. Luciano ci chiama anche da Roma, vedi che tutti da Roma, giustamente. Luciano, anche Piero. Buongiorno. Allora, sono d'accordo anch'io brevissimo con l'ascoltatrice di prima, ci vorrebbe un contraddittorio. Io chiamo dal 10° municipio, che è un municipio medio borghese. Lo state facendo il contraddittorio, ecco, siete qui a dire la vostra. Sì, assolutamente. No, che sicuramente i romani sono sporchi, ma io quello che vedo nel 10° municipio, flotte di camion, e anche stamattina alle 7, fermi ai bar, tutti insieme. Io posso capire. Ma camion dell'AMA? Ci posso capire che ci deve essere la pausa caffè. Ripulivano i bar, svuotavano i cassonetti dei bar. Sì, no. Stamattina ne ho contati 20 in un solo bar. 20? Tutti 20. E 20 fermi a prendere il caffè. Che il caffè deve essere buono, vuol dire... E in più, non solo che è sporca, non hanno mai tagliato l'erba, non hanno mai passato un camion in tutta l'estate e in tutto l'inverno per pulire una guardi, strada. Guardi, Luciano, no, ma è bellissimo, perché giustamente Oscar, attenzione, anch'io che la mettiamo... L'AMA non è responsabile, quello è il servizio giardini del comune, che vale un capitolo a sé per gli scandali che ha No, perché accumulato. Noi la buttiamo anche un po' sul ridere, deve essere buono il caffè, ma vedi il romano incazzato che va dritto per la sua strada, ma giustamente... Ma io capisco, perché giustamente. Ormai per strada vedono... Ma giustamente... Quindi. Ma giustamente. Piero ci chiama sempre da Roma. Buongiorno Piero. Buongiorno a tutti. Allora, è vero che i romani purtroppo sporcano moltissimo, però è anche vero che i romani che si comportano bene, l'AMA se ne frega. Dopo 3 settimane, 4 segnalazioni, una discarica crescente dentro una strada di Roma, via Città di Spiriti, sta aumentando giorno per giorno, perché tra l'altro una volta che qualcuno, specie in periodo di ristrutturazione negozi, comincia a buttare qualcosa e gli altri, è fantastico, il monte aumenta di giorno in giorno. Ma mi qualcosa, 3 settimane, 4 segnalazioni all'anno, qualcosa mi fa capire che verde, mi fa è successo ancora nulla. Piero, mi fa capire qualcosa che lei abita in quella via. in una via vicina. Ah, ed è lei, passo in continuazione. È lei che ha fatto le segnalazioni? Certo, ha fatto bene. Certo, in 3 settimane per 4 volte e nessuno e arriva. Non è successo niente. E la marea aumenta. Aumenta di giorno in giorno. E non c'è il buon caffè vicino al bar lì. E non c'è nessun caffè lì vicino. Piero, va bene. Piero, tenga duro, continui a segnalare. Tempesti di chiamate. Mancano solo 4 anni e mezzo al 2021. 4 anni e mezzo al 2021. No, siamo sconsolati, ma d'altronde, cari ascoltatori, come non affrontare in maniera sconsolata che quello che vi stiamo raccontare e che proviene parte dalla Calabria, ma che riguarda anche varie regioni. Vogliamo salutare Salvatore Caccamo, che è un viceprefetto, è stato commissario straordinario per gestire l'amministrazione comunale a Scalea, Cosenza, quando è stata sciolta per infiltrazioni di mafia. Buongiorno Caccamo, grazie con noi. Buongiorno a voi. Quello che ha segnalato, che a me è molto colpito, il titolo dei giornali dei giorni scorsi era questo: a Scalea, anche proprio per la sua segnalazione, ci sono intere zone dove, non esistendo l'anagrafe tributaria del comune molto dettagliata e informata, intere zone dove non si pagano le tasse e nulla risulta perché l'anagrafe tributaria, ma cos'è? È incompleta, manca del tutto? Come l'ha trovata a Scalea, Caccamo? Io direi che non solo alcune zone, ma direi buona parte della popolazione residente di Scalea non paga i tributi comunali. E mi riferisco non solamente alle utenze domestiche, ma in modo particolare a quelle commerciali. E sapete bene che Scalea è una cittadina ad alta vocazione turistica, e praticamente l'attività principale di Scalea è proprio costituita dalla cosiddetta industria del turismo. E quindi lì sono presenti. È stata anche massacrata dal punto di vista urbanistico e ambientale per via del cemento, per questo. Perfetto. Ma perché non pagano le tasse? Cioè, perché non c'è l'anagrafe tributaria? E quindi non pagano i rifiuti, non pagano. Cioè, che tasse non pagano? Ci faccio capire. Al momento dell'insediamento della commissione straordinaria si è registrato questo. Cioè, nel senso che abbiamo immediatamente constatato, io e i due colleghi che mi affiancavano in commissione, che le amministrazioni precedenti affidavano il servizio di riscossione, sia ordinaria sia quella coattiva, a società esterne, società più o meno affidabili, ma nel protrarsi degli anni le conseguenze sono state assolutamente dirompenti per le entrate comunali, cioè nel senso che queste società non hanno curato assolutamente proprio la costituzione della banca dati dei contribuenti. E come facevano a chiedere le tasse? Non le chiedevano, infatti. Non le chiedevano. E che cosa, su cosa guadagnavano? C'era una fortissima elusione ed evasione. Aspetti, entro proprio per questo. Riflessione: siccome ci hanno annunciato che entro fine anno finisce Equitalia, viene abrogata, ma non ci spiegano, e vedremo, il governo dovrà dirci con cosa la sostituisce. In alcuni comuni, sono tanti oramai, 2000 su 8000, in cui i sindaci vincono le elezioni dicendo basta Equitalia, ci organizziamo in proprio. Attenzione, lì non c'è l'anagrafe tributaria. La vicende come queste, perché giustamente tu chiedevi, e cosa guadagna in quel caso il privato? Il rapporto concessionario ha un canone che viene pagato al comune. E quello, capisci, lo incassa. Quello è incassato. E il comune invece non incassa. Le non case incassa restano nulla. Fantasma, perché lui a quel punto non è interessato a progredire con i dati da accumulare, che sono la base dell'imponibile. Senza dati, dopo 10 anni così, non certo, incassi più niente. Però mi scusi, Caccamo, un comune che dà in concessione a un'azienda di riscuotere dei tributi, poi dovrebbe dire: vabbè, alla fine dell'anno vede che incassa e entra zero, o più o meno zero. Vada alla società e dice: scusa, perché non entrano e soldi? Questo è avvenuto solamente a distanza di ben 11 anni, perché dal 2000 al 2011 nessuno mai si è curato proprio di questo aspetto. Può essere che la risposta a questa domanda di Alessandro Milan sia che farlo significava esporsi a quel punto a perdere qualche votarello? No, anche perché... Consideri che, come stavo dicendo, dal 2011 finalmente ci si sveglia e quindi viene rescisso il contratto con la società che in quel periodo non ha raccolto i tributi, non, diciamo, esatto, non ha raccolto, anche perché stiamo parlando poi di un'amministrazione che è stata sciolta per 'Ndrangheta, no? È per questo che lei è andato come commissario straordinario a gestire la situazione, e con una gestione finanziaria assolutamente drammatica, nel senso che tutto ciò ha fatto sì che le amministrazioni dovessero ricorrere alle cosiddette anticipazioni di tesoreria per poter rimpinguare la cassa. E sta di fatto che al momento dell'insediamento abbiamo trovato una situazione di predissesto finanziario che è stato scongiurato grazie all'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che ha comportato un'attività laboriosa, perché poi consideriamo che anche la Corte dei Conti, la sezione regionale Calabria, aveva pure in un primo momento bocciato il piano di riequilibrio, non ritenendolo congruo, e così la Commissione ha dovuto fare ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti, che ha accolto fortunatamente il ricorso, adottando poi, imponendo meglio, delle misure correttive, quali ad esempio l'eliminazione di tutti i debiti fuori bilancio, ma soprattutto curare l'aspetto della fiscalità locale. Così facendo, ovviamente, ci si è dovuto avvalere degli organi istituzionali presenti sul territorio, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Entrate. Ma ripartire da zero, resettare tutte le partite da zero. Ricordati i conti della sanità della regione Calabria, che anni fa non esistevano per scritto. Ma insieme a Salvatore Caccamo, che è stato commissario straordinario appunto a Scalea Cosenza, andiamo in Sicilia, caro Oscar, perché abbiamo un sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo. Buongiorno sindaco. Buongiorno perché, a tutti i teleascoltatori. Ecco, perché anche Caltagirone è stata commissariata in passato, no? E il commissario che c'era praticamente ha denunciato le stesse cose, cioè gente che non pagava le tasse. Caltagirone esce da un periodo di commissariamento che è durato quasi un anno e mezzo e a sua volta proveniva da una sfiducia al sindaco e alla giunta precedente, eletta nel 2012. La situazione a Caltagirone, se possibile, è ancora più grave di quella che è stata testé narrata. E come mai? Perché intanto siamo un comune in dissesto finanziario, certo, dichiarato fino al 31 dicembre del 2011. Per 4 anni di seguito né il sindaco mio predecessore né il commissario straordinario regionale sono riusciti a riequilibrare il bilancio, quindi è un comune da 4 anni e mezzo senza bilancio, né preventivo ovviamente, tantomeno consuntivo. Abbiamo un tasso di evasione tributaria che supera il 50%, e qui posso serenamente dire, non per timori mafiosi o di infiltrazioni che allo Stato non risultano, ma per una sciatteria amministrativa di una certa politica che, a mio giudizio, ha pensato di guadagnare consenso o di non perderne, non mettendo in campo nessun meccanismo di recupero coattivo dei tributi evasi. È una storia incredibile, Oscar. Tu che dici sempre lo Stato chiede le tasse, lo Stato chiede le tasse, qui invece è straordinario. Lo Stato chiede le tasse a chi le paga e decide in alcune parti d'Italia, dove non c'entra il nord e il sud, in alcune parti dove diventa un sistema consuetudinario, di chiederne sempre meno a chi non le paga. E questo è esattamente questo. Per il consenso politico. Mi fa piacere che Giannino concordi con questa analisi. Come voi saprete, io mi sono insediato non più tardi di una ventina di giorni fa, stiamo continuando la verifica tra i piani catastali e le fotografie aeree. Recentemente sono stati scoperti, come è noto anche a voi, alla stampa, 300 immobili circa, quasi tutti di case fantasma. Chiamiamole case fantasma, sindaco. La verità è che fantasma diventavano i tributi, perché questi signori non hanno pagato per moltissimi anni la TARSU, l'IMU. Le fa abbattere, sindaco, si prende questo impegno, che sa che è la cosa più... Assolutamente sì, ma io ne ho già assunto un altro, perché sto chiedendo agli uffici, l'ho già fatto nei primissimi giorni dal mio insediamento, la situazione aggiornata su tutti i fitti attivi e passivi del comune, sulla concessione incomodato d'uso, incomodato gratuito, di immobili, talvolta anche di prestigio. Approfitto per ricordare che Caltagirone è una delle città medie più importanti della Sicilia, la città della ceramica, d'arte, è la città della scalinata con 142 alzate rivestite in maiolica, è una città che potrebbe star bene se avesse puntato sul turismo di qualità e di nicchia. Nel passato anche immobili di un certo prestigio, mi risulta, e ho già attivato tutte le verifiche del caso, concesse così pro bono pacis o per guadagnare consenso popolare. Bella. Signor sindaco, il rapporto tra gli amministratori e i cittadini. Senta qua. Se pensiamo che la città che ha dato i natali a Luigi Sturzo, non devo dirlo a lei, ma però ricordo agli italiani che non sono tenuti a saperlo, cioè una delle figure più straordinarie a cavallo tra la lotta antifascista, la fondazione della Repubblica, che metteva anche contro il suo partito, la DC, però alzava la voce perché era lungimirante sul fatto che se l'amministrazione pubblica non funzionava si creavano A, problemi di consenso, B, problemi di cassa e così via. Anche per questo, secondo me, va apprezzato chi come lei dice: beh, tentiamo che lo Stato funzioni un po' prima di poterlo criticare. Deve però, sindaco, prendere un altro impegno con noi, oltre a battere come quello che ha detto, cioè dimettersi dall'Assemblea regionale siciliana, perché lei giustamente è stato eletto. Le dimissioni saranno presentate simbolicamente lo stesso giorno delle festività del nostro santo patrono, il 25 di luglio, cioè lunedì prossimo. Ma nel senso che è un miracolo patrono, riuscire a farla dimettere? È un miracolo. Non è il miracolo di San Giacomo, ma è il 30° giorno dalla notifica nel rispetto più assoluto della normativa. Certo, perché in questo momento, essendo appunto un deputato siciliano, ma voi sulla riscossione siete collegati, cioè è delegata a Equitalia o organizzati in proprio storicamente? No, siamo organizzati in proprio, ma di recente il commissario che mi ha preceduto ha stipulato una convenzione con una società specializzata che sostiene e aiuta gli uffici comunali per la notifica di... Che però non è riscossione Sicilia quella guidata da non è riscossione Sicilia. Quello sarebbe un altro capitolo da approfondire. Guardi, abbiamo avuto ospite Fiume Freddo, presidente di riscossione Sicilia, proprio venerdì. Io vorrei tornare un attimo a Salvatore Caccamo. Lei è un funzionario, è un viceprefetto, non è deputato a fare discorsi politici, ma sa che è quello che è successo anche a Roma con Tronca, molti dicono, ma insomma, questi comuni dissestati, ma mettiamo commissari straordinari, qualcuno che non abbia il problema per le prossime elezioni. Gestire i comuni non dalla politica sempre compromessa, ma da funzionari che vengono lì da fuori, fanno le tabelle, si fa così, si fa cosà, no? Lei che risposta può dare? Guardi, io posso rispondere per l'esperienza del comune di Scalea. Devo dire che in modo particolare nell'ambito dell'apparato burocratico comunale dopo una iniziale diffidenza ovviamente nei confronti del commissario straordinario, poi si è capito che i dipendenti hanno avuto salvaguardato lo stipendio, cosa che ovviamente era assolutamente a rischio per la situazione che vi ho descritto. E quindi hanno cominciato un po' a prendere consapevolezza proprio della differenza tra una gestione politica e una gestione affidata a funzionari dello Stato. Cioè all'inizio però la diffidenza c'era, è normale, arriva uno da fuori, il forestiero. Ricordiamo Alessandro i due più recenti fatti di cronaca giudiziaria a proposito del rapporto tra pubblica amministrazione, politica e vita calabrese che non funziona in deficit. Le parole di Gratteri sul fatto che i vertici anche della pubblica amministrazione in molti grandi comuni, regione eccetera eccetera in Calabria contano quanto la politica sul fatto che poi non funzionino le cose, perché i politici passano ma loro restano, E secondo, venerdì scorso la conferenza stampa del procuratore Caffiere de Rao e del capo dei ROS nazionali per questa operazione, l'operazione Mamma Santissima, che a giudizio dei magistrati, vedremo, ma ha individuato la cupola politica dell'Andrangheta, con quattro arresti di ex politici, tra cui un ex sottosegretario del governo Prima Repubblica, e poi una richiesta di arresto per un attuale senatore Caridi eletto col PDL e oggi nel gruppo GAT. E le parole a me hanno molto colpito, che il Caffiere era usato venerdì, dice: no, noi facciamo un salto in avanti perché qui non si tratta più solo politici locali e 'ndrine, ma c'è finalmente elementi per parlare di una regia complessiva con la politica nazionale. Sì. La Calabria purtroppo anche questo. Questo purtroppo sì. Allora, noi nel frattempo ringraziamo Salvatore Caccamo, viceprefetto, è stato commissario straordinario alla Scalea, Gino Ioppolo, sindaco di Caltagirone Catania, che si è assunto anche degli impegni qui con noi ufficialmente a Radio 24. Sì, e poi anche 25. L'abbattimento delle case abusive, che è un tema. Prima che le dimissioni, poi le seguiamo caramente. Allora, guarda che ci chiamano tutti. Paola da Roma. Paola, buongiorno. Ah, buongiorno. Lei buongiorno. Sporca? Sporca dunque, la strada. Dunque, non è vero, no. I romani non sono sporchi. No, le non sono sporchi. Dico che per tre giorni l'immondizia non è stata ritirata. C'erano formati tutti i sacchi intorno ai cassonetti. Ieri sono venuti, hanno vuotato i cassonetti, hanno lasciato tutti i sacchi, non è passato nessuno dell'AMA a raccogliere i sacchi con i camion piccoli. Sempre quelli del bar, Oscar. Sono vergognosi. Io faccio la differenziata e vedo tutti che la fanno. È facile dire che Roma è sporca perché l'AMA non fa nulla. Non fa nulla. Sono anni che pensano solo a mangiare. Qualche anno fa al Pantheon, sei spazzini, che erano tutti i ragazzi che si vedeva che erano di buona famiglia, eccetera, in tre quarti d'ora hanno vuotato cinque cestini, hanno scherzato, sono andati al bar, ridevano, parlavano, praticamente hanno lavorato 10 minuti su 45. Va bene, andiamo da Giovanna, sempre da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io volevo segnalare, oltre al fatto che spesso mi capita di incontrare gruppi di operatori nei bar, soprattutto bar. I bar vivono grazie agli operatori. Una convenzione, evidentemente. Va bene, ma dica Giovanna. In particolare io vivo a Vallerano, via Luigi Chiarini, sono tutte villette, in genere piccoli comprensori, numero di famiglie inferiore ad 8, per cui siamo costretti a mettere l'immondizia per giorni, ovviamente alterni, fuori dalle porte. Tutta via Luigi Chiarini è piena di questi sacchi dell'immondizia, che oltre ad attirare alcuni romani che lasciano anche le loro spazzature, attira cani, randagi, io sono stata aggredita, gatti, topi e anche a questo punto Roma Sud è invasa di cornacchie. Oh. È una situazione oscena. Poi io posso capire, ma caro Oscar, hai visto quanti cittadini di Roma insomma arrabbiati? Presidente Fortini ci ha spiegato che è tutta la catena che da monte il 28 si maggio interrompe. Che era lunedì, c'era sciopero e Fortini ebbe, secondo me, non riuscendo bene a capire gli effetti del suo invito ai romani, la non troppo felice idea di dire ai romani: tenete la spazzatura in casa e non mettetela per strada. Allora capisci che io capisco anche che i romani si sentono alla fine sempre un po' più disperati, ecco, perché dice, è come è a questo punto, se faccio la differenziata ci criticate, dobbiamo tenerla in casa perché voi fate. Ecco, ricordiamoci questo. Li vedono al bar, devo dire che questa cosa del bar. La tariffa alle famiglie è aumentata più 43% in 10 anni, alle imprese più 72%, e non gli anni della deflazione, quindi inflazione zero o quasi. Ecco, i romani pagano più in cambio di. In cambio di questo 2021. Servizio tenete duro fino al 2021. Date retta a me. Miau miau miau. Più questa gatti per Roma. Intanto noi ci dobbiamo fermare qui, caro Oscar. Ci troviamo domani, a in domani. Diretta. Ciao.